Roma è il 9 maggio 1997. Matarusso ha 22 anni. Vive con i suoi genitori, Donato e Aureliana, e la sorella Tiziana. Una famiglia affiatata, molti amici. Il fidanzato, Luca Bendini, lo ha sentito poco prima di recarsi all'università. Stanno insieme da 2 anni. Luca è installatore di allarmi. Lei ha scelto invece di studiare legge, perché crede nel valore della giustizia. Con lei c'è Yolanda Ricci, la sua compagna di studi. Ora si trovano nel vialetto situato tra la facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche alla Sapienza di Roma. Stanno discutendo del prossimo esame. Il dramma di Marta si consuma nell'arco di un solo istante. Si sente da lontano un tonfo sordo. Marta non parla più, non sente più nulla. Si accascia sull'asfalto. Yolanda pensa ad un malore. Sono le 11:35 del 9 maggio del 97. È un proiettile, quello che si porta via i sogni di Marta Russo. Le sue condizioni sono disperate. Viene trasportata al policlinico. Per Marta inizia una lotta. Migliaia di persone le stanno accanto. Le inviano fiori, lettere, bigliettini. Amici, colleghi, persone comuni restano intorno alle mura del reparto dell'Umberto I, ma il cuore di Marta si arrende alle 22 del 13 maggio del 97. Il suo funerale è un lutto nazionale. Nella cappella universitaria ci sono persone che Marta neanche conoscevano. E su ogni volto si legge un interrogativo. Perché proprio lei? Perché proprio Marta Russo? Gli investigatori passano al setaccio la vita di Marta, le sue abitudini, frequentazioni, legami familiari, ma non si scopre nulla. La sua è una vita normale, niente che lasci immaginare una vendetta, una ritorsione. Vengono escluse la pista politica e quella passionale. Luca Bendini, il fidanzato, al momento dell'omicidio era al lavoro e il suo alibi viene confermato dai suoi colleghi. Il 19 maggio del 97 le indagini si spostano a giurisprudenza. Gli uomini della scientifica scoprono tracce di polvere da sparo sul davanzale della finestra dell'aula 6 nell'Istituto di Filosofia del Diritto. Si tratta di una minuscola particella contenente piombo e antimonio. Il 12 giugno viene arrestato il professor Bruno Romano, direttore dell'Istituto di Filosofia del Diritto. Lo mette nei guai l'assistente Maria Chiara Lipari. Il 14 giugno vengono convocati in questura l'usciere Francesco Liparota e la segretaria dell'Istituto Gabriella Alletto. L'Alletto dice di aver visto Giovanni Scattone sparare e mettere la pistola nella borsa di Salvatore Ferraro. L'Alletto è sicura. Con loro c'è anche Liparota. Saranno lunghi mesi di perizie e accertamenti. Il 9 gennaio del 98 la procura chiede rinvio a giudizio di Scattone, Ferraro, Liparota, Alletto, Romano, Basciu, Urilli, Zingale e Mariana Marcucci, amica di Ferraro. Il processo di primo grado si apre il 20 aprile 1998 davanti alla Corte d'Assise di Roma. Il 1 giugno 1999 Scattone viene condannato a 7 anni per omicidio colposo e porto d'armi. Ferraro è condannato a 4 anni per favoreggiamento. Il 3 maggio 2000 inizia il processo di secondo grado. Il 7 febbraio 2001 in appello Scattone è condannato a 8 anni di reclusione per omicidio colposo, Ferraro a 6 per favoreggiamento e l'usciere Francesco Liparota a 4 per lo stesso reato. Il 6 dicembre dello stesso anno tutte le condanne vengono annullate dalla Corte di Cassazione, che rinvia il caso alla Corte d'Assise d'Appello. Il 15 ottobre comincia a Roma il nuovo processo. Il 30 novembre la Corte d'Assise d'Appello riduce la pena a 6 anni per Scattone, a 4 anni e 6 mesi per Ferraro e a 2 anni per Liparota. Il 5 dicembre 2003 la Cassazione rivaluta ancora il caso. Il 15 dicembre la Suprema Corte stabilisce la condanna a 5 anni e 4 mesi per Scattone per omicidio colposo e a 4 anni e 6 mesi per Ferraro per favoreggiamento, annullata la condanna a Liparota. 23 maggio 2000, nella sua requisitoria al processo di secondo grado, il procuratore generale Luciano Imperisi spiega che la prova scientifica acquisita è agli atti inconfutabile. Volevo capire se c'era la prova del 9. Insomma, stiamo a parlare di tutti questi testi quando poi si è sparato da tutt'altra parte. E vi devo dire che la prova scientifica mi ha dato una serenità assoluta. C'è in atti una prova certa e insuperabile, un punto fondamentale questo del processo. E allora bisogna che la prova scientifica per tutti sia chiara. La prova scientifica si basa su alcuni dati certi. Giugno 2000, la lettera racconta al PM di aver visto un uomo vestito di nero la mattina dell'omicidio Marta Russo. Stavo per entrare, quindi non ero vicino alla porta. Da che distanza era? Dalla... Secondo me ero 3 o 4 passi dalla porta. 3 o 4 passi dalla porta? Sì. Venivo dalla sala cataloghi. Usciva una persona vestita di nero, alta. Di sesso maschile? Di sesso maschile. Lei è sicura di questo fatto, cioè che uscisse questa persona? Ne sono sicura perché l'ho vista di spalle. Niente mi ha potuto colpire per ricordare che fosse una persona da me che conoscevo. Cioè o che fosse basso, o che fosse grosso. Non sono riuscita a identificare nella mia memoria, facendo uno sforzo prima di venire qua, chi potesse essere. Però di questo ne sono veramente sicura, come di tutte le altre cose, peraltro. Il 15 dicembre 2003 la quinta sezione penale della Cassazione mette la parola fine lungo l'iter giudiziario e conferma le responsabilità di Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, ma assolve in via definitiva Francesco Liparota. La nostra Cristina Batocletti chiama quel giorno Giovanni Scattone. Commento negativo di una sentenza che diciamo suggella un errore giudiziario. Cosa intendete fare adesso? Sicuramente chiederemo la revisione del processo, non appena sarà possibile. Lei era sicuro di uscire innocente dal processo? Come ha accolto? Sicuro no, però ero molto fiducioso e l'ho accolta male, con molta delusione e insomma anche indignazione proprio come cittadino italiano. Sono stati Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro. Ne è convinto ancora oggi Luca Petrucci, avvocato di parte civile. È stato confermato l'impianto accusatorio. Qual è il vostro commento? Ma assolutamente sì, in quanto anche i giudici di legittimità hanno confermato che la motivazione dei giudici di merito che basavano le loro considerazioni sull'affermazione di responsabilità dei due principali imputati sono state confermate. Quindi l'impianto accusatorio rimane confermato, sono stati loro, mettiamo una parola fine su questa complessa vicenda giudiziaria, sostanzialmente confermando le nostre ragioni. La riduzione di pena a cosa è stata dovuta? Guardi, è un fatto tecnico, la Corte ha ritenuto assorbito il reato di detenzione di arma da fuoco con quello di porto di arma da fuoco. Quindi questo ha consentito una piccola contrazione della pena. Questo non sposta la nostra valutazione, noi non siamo interessati alla quantità di pena, ma siamo interessati soltanto all'affermazione di responsabilità. Questa è tutta confermata da parte dei giudici supremi. Sul caso di Marta Russo, cioè sulla morte di una ragazza di 22 anni in un vialetto dell'Università La Sapienza, il clamore è stato eccessivo. Conduttori televisivi si sono improvvisati giudici di sentenze tutte da emettere. Gli imputati si sono trasformati star al servizio dell'audience. Dopo questo racconto su un caso di cronaca grave che ha diviso l'opinione pubblica, vengono in mente le parole del magistrato milanese Emilio Alessandrini. Ora non c'è più, ucciso dai terroristi sul finire degli anni 70, ma le sue idee sulla giustizia sono ancora attuali. Le sentenze non si commentano, vanno rispettate, semmai si impugnano poi in sede processuale. È l'insegnamento migliore che giunge dal passato.